Il terzo anello, ad alta voce. Aldo Busi legge la propria traduzione di Alice nel Paese delle Meraviglie, di Lewis Carroll, per Edizioni Feltrinelli. Il croquet della regina. Vicino all'entrata del giardino c'era un grande rosaio di rose bianche, ma tre giardinieri erano tutti indaffarati a dipingerle di rosso. Alice pensò che la cosa era davvero strana e si avvicinò per osservarli meglio. Uno dei giardinieri diceva: «Occhio cinque, non vedi che mi inzaccheri tutto di vernice?» «Non è colpa mia», disse il cinque risentito, «è il sette che mi ha urtato il gomito». Al che il sette sollevò lo sguardo e disse: «E bravo cinque, la colpa è sempre degli altri». «Tu faresti meglio a tenere la bocca chiusa», disse il cinque. «Solo ieri ho sentito la regina dire che meriteresti di essere decapitato». «E perché?» disse quello che aveva parlato per primo. «Fatti gli affari tuoi, due», disse il sette. «Sì, e tu fatti i tuoi», disse il cinque. «Te lo dirò io il perché. Perché alla cuoca hai portato i bulbi di tulipano invece delle cipolle». Il sette scaraventò via il pennello e stava già dicendo: «Ah, di tutte le ingiustizie che ho visto!» Quando lo sguardo gli cadde su Alice che li stava osservando e tacque di colpo. Anche gli altri si guardarono intorno e tutti quanti fecero un profondo inchino. «Vi spiacerebbe dirmi», fece Alice leggermente intimidita, «perché state dipingendo quelle rose?» Il 5 e il 7 non dissero niente, ma guardarono il 2. Il 2 a bassa voce cominciò: «Vede, signorina, il fatto è che questo qui avrebbe dovuto essere un rosaio di rose rosse e noi per errore ne abbiamo piantato uno di rose bianche e se la regina venisse a saperlo, sa, ci farebbe tagliare la testa a tutti». «Così, come vede, signorina, stiamo facendo del nostro meglio prima che lei arrivi per...» In quel momento il cinque, che non aveva mai smesso di guardare dalla parte opposta del giardino, gridò: «La regina! La regina!» E immediatamente i tre giardinieri si buttarono faccia a terra. Si sentì un rumore di passi in marcia e Alice si guardò intorno, impaziente di vedere la regina. Per primi comparvero 10 soldati armati di picche. Erano della stessa sagoma dei tre giardinieri, piatta e bislunga, con le mani e i piedi agli angoli. Dietro di loro procedevano 10 cortigiani. Erano tutti inquadrati dalla testa ai piedi e marciavano anch'essi a due come i soldati. Poi venivano i 10 infanti reali, sfilavano a coppie i tesorucci, saltellando gaiamente mano nella mano, tutti impataccati di cuori. Seguivano gli ospiti, per lo più re e regine. Tra di loro Alice scorse anche il coniglio bianco, che stava parlando concitatamente e ogni frase sorrideva, pieno di nervosismo. Le passò accanto senza neppure notarla. Poi veniva il fante di cuori, che sopra un cuscino di velluto cremisi recava la corona del re. E finalmente a concludere questo magnificente corteo apparvero il re e la regina di cuori. Alice si chiese se doveva lasciarsi cadere bocconi come i tre giardinieri, però non ricordava affatto di aver mai sentito parlare di una simile regola ai cortei. E inoltre, a che serve un corteo, si chiese, se la gente deve stare con la faccia a terra senza poterlo vedere. Così rimase ferma dov'era e attese. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, quando il corteo arrivò davanti ad Alice, tutti si fermarono di colpo a guardarla e la regina disse con voce imperiosa: «Chi è quella lì?» Il fante di cuori, a cui era indirizzata la domanda, si limitò a chinare il capo sorridendo. «Idiota!» disse la regina scuotendo la testa spazientita e rivolgendosi ad Alice continuò: «Come ti chiami, cocca?» «Mi chiamo Alice, a vostra maestà piacendo», disse Alice con la dovuta compitezza, ma aggiungendo fra sé e sé: «Insomma, si tratta solo di un mazzo di carte in fondo, non c'è proprio da avere paura». «E chi sono sti qua?» chiese la regina indicando i tre giardinieri che erano rimasti prosternati a faccia in giù. Infatti, fin quando quei tre continuavano a starsene coperti a quel modo, la regina non avrebbe mai potuto sapere se erano giardinieri, soldati, cortigiani o magari figli suoi. Il disegno che avevano sulla schiena era identico a quello di tutto il mazzo. «Come faccio a saperlo io?» disse Alice, sorpresa del suo stesso coraggio. «Non è mica affar mio». La regina diventò paonazza dalla rabbia e dopo averla fissata un istante con occhi da belva, urlò: «Boia! Dacci un taglio!» «Dacci un taglio tu!» disse Alice a voce molto alta e decisa e la regina azzittì. Il re le posò la mano sul braccio e disse timidamente: «Cerca di capire, mia cara, è solo una bambina». La regina, con un gesto d'ira, si staccò da lui e disse al fante: «Voltali!» Il fante obbedì, facendo molta attenzione a toccarli soltanto con un piede. «Attenti!» strillò la regina, e i tre giardinieri scattarono in piedi all'istante e presero a fare inchini al re, alla regina, agli infanti reali e a chiunque altro. «Piantatela!» gridò la regina. «Che mi fate girare la testa!» Quindi, volgendosi verso il rosaio, continuò: «Cosa stavate combinando lì?» «A vostra maestà piacendo», disse il due con tono che più umile non si può, e piegando un ginocchio fino a terra mentre parlava, «stavamo cercando di...» «Lo vedo», disse la regina, che nel frattempo aveva esaminato le rose. «Boia! Dacci un taglio!» E il corteo riprese la marcia, meno tre soldati rimasti indietro per giustiziare i tre sventurati giardinieri, i quali corsero da Alice per farsi proteggere. «Nessuno vi decapiterà», disse Alice e li nascose in un grosso vaso di fiori lì vicino. I tre soldati perlustrarono avanti e indietro per un paio di minuti, poi, non trovandoli, si accodarono come se niente fosse a tutti gli altri. Yeah. when you're walking around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit. And the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on. Dato il taglia! Urlò la regina. Hanno tagliato, a vostra maestà piacendo, gridarono i soldati in coro. Voi a can, così si fa! Strillò la regina. Sai giocare a croquet? I soldati rimasero in silenzio e guardarono Alice, poiché la domanda era evidentemente rivolta a lei. Sì! Gridò Alice. Allora gambe in spalla! Ruggì la regina e Alice si unì al corteo, curiosissima di vedere che piega avrebbero preso gli eventi. Giornata incantevole, non è vero? Disse timidamente una vocina al suo fianco. Stava camminando accanto al coniglio bianco, che le inviava occhiate cariche d'ansia. Certo, disse Alice, dov'è la duchessa? Disse il coniglio più piano che poté, guardandosi attorno preoccupato. Poi, sollevandosi sulle punte delle zampe, avvicinò la bocca all'orecchio di Alice e bisbigliò: è stata condannata a morte. Ma che cosa ha fatto? Disse Alice. Hai detto che peccato? Chiese il coniglio. No, disse Alice, non penso affatto che sia un peccato. Ho detto: ma che cosa ha fatto? Ha dato una tirata di orecchie alla regina, cominciò il coniglio. Alice sbottò in una risatina soffocata. Pispigliò il coniglio terrorizzato. La regina ti sente? Sai, la duchessa era arrivata in ritardo e la regina le ha detto: ai vostri posti! Tuonò la regina e subito tutti si misero a correre in tutte le direzioni e a sbattere l'uno contro l'altro. E tuttavia, dopo un paio di minuti, ognuno fu al proprio posto ed ebbe inizio la partita. Alice non aveva mai visto prima un campo da gioco così squinternato, tutto buche e gibbi. Le palle erano dei porcospini vivi, le mazze dei fenicotteri vivi, e i soldati dovevano piegarsi in avanti fino a toccare terra coi palmi per formare degli archetti. All'inizio la cosa più difficile per Alice fu maneggiare il suo fenicottero. Riusciva senza troppi problemi a tenergli stretto il corpo sotto il braccio, lasciando le zampe penzoloni, ma appena era arrivata a fargli allungare bene il collo e a posizionargli la testa per la mazzata al porcospino, il fenicottero si girava a guardarla in faccia con un'espressione così rincitrullita che lei non poteva fare a meno di scoppiare a ridere. Quando poi era riuscita a rimetterlo con la testa in giù e stava per assestare il colpo, si accorgeva con sommo rincrescimento che il porcospino si era già tutto sballato e stava zambettando via. E per colmo di sventura c'era sempre una buca o un gibbo a sbarrarle la strada da qualsiasi parte volesse spedire il porcospino e, poiché I soldati continuavano a raddrizzarsi e a spostarsi in altre zone del campo. Alice arrivò ben presto alla conclusione che quel gioco era troppo complicato per lei. I giocatori giocavano tutti insieme, senza aspettare il loro turno, bisticciando senza sosta e facendo gomitate per accaparrarsi i porcospini. Non passò molto tempo che alla regina già le giravano i santissimi e si mise a pestare i piedi e a gridare «Voia! Un bel zacca quello lì!» o anche «Voia! Un bel zacca quella là!» a una media di una volta al minuto. Alice cominciava a sentirsi molto a disagio. A dire il vero, fino a quel momento non aveva ancora avuto alcun battibecco con la regina, ma sapeva anche che poteva accadere da un istante all'altro, e allora pensò che ne sarà di me. Qui vanno matti per decapitare la gente, anzi, è un miracolo che ci sia ancora qualcuno con la testa sulle spalle. Si stava guardando attorno chiedendosi se ce l'avrebbe fatta a svignarsela senza farsi notare, quando percepì qualcosa di strano materializzarsi nell'aria. Dapprima la cosa la riempì di inquietudine, ma dopo averla messa a fuoco per un po', stabilì che si trattava di un sogghigno e fra sé e sé disse «È il gatto del Cheshire, finalmente posso scambiare quattro chiacchiere». «Come va la vita?» disse il gatto non appena ebbe bocca sufficiente per aprirla. Alice rimase in attesa finché non apparvero anche gli occhi e poi gli fece un cenno col capo. «È inutile parlargli finché non gli sono spuntate le orecchie», pensò, «e se non tutte e due almeno una». Nel giro di un minuto comparve l'intera testa. Alice depose il suo fenicottero e prese a fargli la cronaca della partita, rincuorata di avere qualcuno che le prestasse ascolto. Il gatto, pensando forse di essersi messo in vista a sufficienza, non ritenne opportuno far apparire altro. «Non mi pare che stiano giocando con lealtà», protestava Alice, «e poi battibeccano tutti con quanto fiato hanno in gola che uno non riesce neanche a sentire la propria voce». «E le regole, poi, così imprecise, ammesso che ce ne siano, non le rispetta nessuno! E non hai idea! Che confusione con questi arnesi vivi! Per dirtene una, vedi quell'archetto che se la sta filando verso il fondo del campo? Dovrebbe essere qui a farsi infilare da me! Un minuto fa stavo per bocciare il porcospino della regina, solo che appena ha visto il mio ha fatto dietro fronte. Ma si può!» «Ti piace la regina?» disse il gatto a bassa voce. «Neanche un po'», disse Alice, «è così sfacciatamente!» In quell'istante si rese conto che la regina si trovava proprio dietro di lei e stava allungando le orecchie. «È così sfacciatamente brava che non vale neanche la pena di continuare la partita, alla vittoria in tasca!» La regina sorrise e passò oltre. Thank you. Con chi stai parlando? Disse il re avvicinandosi ad Alice e guardando con profonda curiosità la testa del gatto. Ah, oh, è un mio amico del Cheshire, un gatto, disse Alice. Mi permetta di presentarglielo? La sua cera non mi piace per niente, disse il re. Tuttavia gli sia concesso di baciarmi la mano, se gli va. Ne farei a meno, grazie, osservò il gatto. Non fare l'impertinente, disse il re, e non guardarmi a quel modo. Intanto, mentre parlava, il re si era messo dietro Alice. Anche un gatto, caro te, può guardare in faccia un re, disse Alice. Devo averlo letto da qualche parte, ma non so dove. Comunque sia, bisogna toglierlo di mezzo, tagliò corto il re e gridò alla regina che stava passando in quel momento. Mia diletta, avrei una bella gatta da pelare, anzi un gatto un po' così, ti va di pelarlo tu? La regina aveva un solo modo di sistemare ogni grattacapo, grande o piccolo. Boia! Dacci un taglio! Esclamò senza neppure muovere gli occhi intorno. Andrò io stesso a prendere il boia, disse il re prontamente, e corse via. Alice pensò che tanto valeva tornare indietro e vedere come procedeva la partita, poiché in lontananza sentiva la voce della regina che urlava come un'ossessa. L'aveva già sentita condannare a morte 3 giocatori per aver perso il turno e la cosa non le garbava affatto, dal momento che nella partita regnava ormai una tale confusione che non sapeva mai se toccava battere a lei o no. Ad ogni buon conto se ne andò a cercare il suo porcospino. Il porcospino stava ingaggiando una lotta con un altro porcospino, il che parve ad Alice una splendida occasione per sbattere 2 palle una contro l'altra e segnare 2 punti in un colpo solo. La sola difficoltà era costituita dal suo fenicottero che, dopo aver attraversato tutto il campo di gioco, ora stava dibattendo le lunghe ali nel vano tentativo di volarsene su un albero. Quando finalmente riuscì a riacchiappare il fenicottero e a riportarselo indietro, la lotta era finita e i porcospini erano scomparsi. Pazienza, pensò Alice, tanto anche gli archetti se ne sono andati tutti nell'altra metà campo. Così, imbracciato stretto il fenicottero per evitare che scappasse di nuovo, tornò sui suoi passi per riprendere almeno 2 delle 4 chiacchiere col suo amico «Ti vedo, non ti vedo». Ma con suo grande stupore, intorno al gatto del Cheshire, trovò radunata una gran folla. C'era una bega clamorosa tra boia, re e regina, che vociavano tutti insieme, mentre gli altri non dicevano neanche «ba» e avevano tutti l'aria di desiderare di trovarsi altrove. Non appena Alice comparve, i 3 la chiamarono a sistemare la vertenza e le ripeterono ognuno le proprie ragioni, ma tutti in una volta, cosicché le fu difficile capire esattamente quel che dicevano. La tesi del boia era che nessuno può tagliar via una testa se non c'è un corpo da cui tagliarla via, che non gli era mai capitata una cosa del genere prima e che non intendeva certo cominciare adesso alla sua età. La tesi del re era che tutto ciò che ha una testa può essere decapitato e che era ora di finirla coi distinguo. La tesi della regina era che se qualcosa non veniva fatto entro 0 secondi avrebbe fatto giustiziare tutti, nessuno escluso.